Drago, scusami, Drago. Oh, ma Dacco? Ma non si è mai visto in faccia. Dacco? Quando parlano e scrivono di Dacco, non si vede mai una foto. Se tu cerchi su Google immagini Dacco, viene fuori saranno. Formigoni. Ma come? Se leggi l'articolo di Repubblica, del quello Corriere, è vero, sui giornali, e c'è un titolo, c'è Dacco, c'è la foto di Formigoni. Io sto cominciando a pensare una cosa, Drago. Cosa? Che Formigoni è Dacco e viceversa. Asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Oh, però lunedì, perché non suona subito la campanella vabbè, della ricreazione? Così esagerato, no? Subito. E ora, bambini, ricreazione! Fantastico. Non è possibile. Oh, Drago, guarda che bello vedere i bambini che fanno la fila ordinatamente per salire alle scalette dello sci. Vabbè, che a proposito, belli. Sai che adesso che bravi. In America, a proposito di queste cose, dopo la mamma tigre di Amy Chua, c'è un altro modello di mamma che sta affermandosi, secondo l'espertona Judith Warner, ed è la mamma cattiva con i bambini degli altri. Cioè, spiega. È la mamma che rispecchia se stessa nel suo bambino, nella sua bambina, e che quindi, per esempio, spinge via gli altri bambini dalla scaletta dello scivolo per far passare prima il suo, no? Ma sei proprio il contrario di mia mamma? Oh, bambino Alberico. Ecco, giusto la tua, dire, volevamo sentire. È il contrario di tua mamma nel senso che è tua ammam. No, no, Drago, per favore. Vabbè, adesso... dai, una battutona, no, niente, vabbè, lascia perdere. Dai, spiegati, Alberto, allora, non ho capito. Sentivo che dicevate che ci sono le mamme, che giustamente difendono i diritti dei loro bambini, no? E si fanno le loro ragioni, cioè prendono le difese. Sì, no? Ma in realtà sono mamme che sbagliano completamente l'approccio, perché i bambini non devono avere sempre l'angelo custode addosso che gli para gli infatti, errori. Quindi. Beh, io in effetti lo vedo, vedo Ema, no? Voi sapete chi è Ema, no? Sì. Ema! Sì, certo che lo sappiamo, Ema, il bambino, la mamma. Questo povero bambino qui ha sempre sua madre che gli soffia sul collo, no? E mi fa pena, no? Vedi? È quello che volevo dire. Però il mio caso è forse peggio. Perché mia madre è fin troppo gentile verso gli altri bambini. Ma scusami, come si fa a essere troppo gentili? Gentile è uno come gentile, si fa? No, troppo si gentile. Fa. Allora, ascolta un attimo. Gentile gioca nell'Italia, no? Adesso. Sì, vabbè, 25 anni fa, 40, non lo so. Non c'è, dai, c'è il campionato. Siamo oltre, sì, campionati europei, vai avanti. Allora, mi fate spiegare. È troppo gentile. Allora, quando ero piccolo, cioè tantissimo tempo fa, c'è cioè una roba che cioè, tipo, 2 anni fa, capito? Sì. Un'era geologica. Sì. Io andavo sempre al parchetto con la mamma, no? Perché adesso vai da solo. No, delle volte sono da solo e delle altre volte sono col Gildo, no? Dipende. Vabbè, se lui può andiamo giù due, no? Sei da solo, vai avanti, insomma, dai, ok. Allora, quando mia mamma mi portava ai giardinetti, no? Sì. C'era l'ingorgo dei bambini dello scivolo, no? Sì. Lei faceva sempre passare davanti agli altri, no? Per essere gentile, mi diceva, capite vabbè, come si fa? Ecco, diciamo che è giusto. Però, no? Poi questi qui dici, vabbè, siamo gentili. Questi passano davanti, scendevano giù in mezzo secondo, sì, e già si ripresentavano per una nuova scivolata. Sì. E mia madre li faceva passare ancora, no? Vabbè, però per essere gentili. Poi no? Dopo. No, magari... poi niente. No, niente. Qui no, poi quando arrivava buio, sì, che ormai non si vedeva più niente, e lo scivolo ghiacciato. E mia madre diceva, hai visto, adesso puoi andare. Ma dove vado su? Qui è tutto ghiacciato. Ma vabbè, ma... Hai capito? E se provavo a lamentarmi, mi prendevo pure uno schiaffo, capito? Ma come? Anche lo schiaffo? Per essere gentile, no? Ma per sì, ma cioè, gentile. Ti dà uno scappellotto, uno schiaffo per essere gentile. Sì. Ti insegna a essere gentile. Sì, questo però, è il tuo metodo. Diciamo che da un certo punto di vista ha ragione la mamma di Alberto, perché, insomma... Beh, le intenzioni sono buone, però un po' esagera. Come Ema, al contrario. Vabbè, però dai. Che farebbe amen. Amen. No, amen. Vabbè, almeno Alberto è così. Ed è così anche mio padre. Perché quando viene all'oratorio, no? Sì. Che viene a vederci a giocare a pallone, no? Poi sai com'è, i bambini si offre girato a tutti, no? Sì. Mio padre l'offre girato a tutti, E no, però a me no. Ma cioè, tutti gli altri bambini. Ma come è possibile? Eh sì, perché lui dice che fare sto gesto del gelato per lui è un sacrificio finanziario, no? Perché c'è la crisi. E quindi io, con la mia rinuncia spontanea, dice lui, che è spontanea dove? Che lui non me lo prende, lo devo fare andare a rubare. Contribuisco a salvarlo dal baratro, no? Quindi baratro, mi responsabilizza, mi dice attenzione, il tuo gelato poi c'è il baratro. Capito? Senti Drago, dovresti chiamare quell'espertona americana, com'è che si chiama? Judith Warner. Judith, ci senti? Dovresti fare un salto qui a conoscere i genitori del bambino Albertino e di sicuro dopo saresti ancora più espertona. Ma con chi parli? I genitori del bambino Alberto saranno quel che sono, ma sempre meglio di quella tizia che ha raccontato su Vogue di come ha fatto perdere 7 kg in un anno alla figlia di 7 anni. Beh, comunque il bambino Alberto ha assolutamente bisogno di passare sotto le mani di questa tizia. Tizia che si chiama Dara Lynn Weiss. Weiss. E che ha celebrato il dimagrimento della figlia con foto e articolone su Vogue. Ma lei è una giornalista di Vogue? No, lei è una socialite. Una socialite. Cos'è, cioè, una bibita? È una che fa la bella vita, capito? Ah. Vita mondana Manhattan, socialite. Ah, feste, feste, esatto, feste, feste, feste. È bello essere una socialite o un socialite. Cioè, più o meno come essere un socialist negli anni Ottanta a Milano. Non credo che ci sia nessuno in quest'aula responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Quindi, insomma, questa socialite ha sottoposto la figlia di 7 anni a una dieta allucinante. Esattamente, come le diete a cui si sottopone la socialite stessa, da 30 anni. Sì, perché è un po' cicciottella questa socialite, e anche sua figlia. Mm. E allora, sai com'è? Per continuare a essere delle socialite non si può essere cicciottelle. Quindi la madre, per evitare alla figlia di essere oggetto di bullismo tra le socialite, ha pensato bene di farla dimagrire a forza. Ah, cioè, per difenderla dai bulli è diventata una bulla. Ehi, dammi la tua merenda, se no ti spacco la testa! Cose così, sì, sì, sì. Sono le pazzie della donna moderna, non c'è niente da fare. No, vabbè, ma le donne dicono che lo fanno per noi uomini, quindi... E tu ci credi? Ma no. Chiedo asilo! Drago, tu che sei sempre così manicheo. Ma chi? Manicheo io? Manichino. Manichino. Sei sempre lì a fare piripipipipi, che puntualizzi come si dovrebbero fare le cose, come ci si dovrebbe comportare. Ma non sono gramellini. Sappi che la realtà non è tutta bianca o tutta nera. Esistono sfumature di grigio. Ma sì, lo so, non è che arrivi tu a spiegarmi. 50 sfumature di grigio, lo sai cos'è? No, cos'è? Vedi, non c'entra niente con i manichei, neanche con i manichini. E allora? È il libro dell'anno. Il libro dell'anno. Un libro erotico per le signorine, Drago. Adesso lo sai che c'è anche la pornografia per le signorine, no? Lo so. I libri erotici sono da sempre stati libri per signorine, ma questo è il libro dell'anno. È un po' romantico, un po' sadomaso, capito? Le solite cose che piacciono alle donne. Beh, certo, Fifty Shades of Grey. Ho visto che lo leggeva sull'aereo ai Caraibi una ragazza giovanissima. Ero su un aereino veramente piccolissimo. E dall'altra parte del mondo c'era questa ragazza sui 20 anni che leggeva Fifty Shades of Grey, appunto. Ed era tutta arrapata, immagino. So. Ho letto che le donne si arrapano tantissimo, Drago, leggendo quelli. Non lo so, ci direi, lei si arrapano. Era seduta vicino a me su un aereo minuscolo, sarà pesata 120 kg, io ero tutto schiacciato, lei leggeva tutta presa sto libro, non so se fosse mentre citata. Ti schiacciava. Sì. Allora stava immedesimandosi, capito? Ma nelle pratiche sadomaso descritte nel libro. Ma no, veramente mi stava schiacciando e basta. Non è una pratica sadomaso. Direi che è solo un problema di dimensione della poltrona e di dimensione della signorina. Ma tu svegli, dovevi approfittarne. Ma chi? Quando ma le ragazze leggono 50 sfumature di grigio, sono più vulnerabili. Ma chi è come dice? Con la droga del sesso che prendeva Sara Tommasi. Ho capito. Leggerlo così sfacciatamente vicino a un uomo sull'areino, poi è proprio una vera dichiarazione di resa. È come dire, prendimi, sono tua. Ma scusa, ma ti ho detto che pesava 120. Ah, poi lo leggevi in inglese. Take me, I'm yours. Vabbè, non sarei riuscito nemmeno ad abbracciarla tutta intera, capito? Vabbè, l'abbracciavi a metà, no? Sì, l'abbracciavo a metà. Poi avevo bisogno di un altro dall'altra parte che l'abbracciava. Per abbracciarla tutta. Sì, come si fa con gli alberi, no? Esatto, in due, in tre, due, in quattro. Due, tre, threesome. Una gangbang, quello che vuoi. Sull'aereino. Sur l'avion, le petit avion, je suis en train de lire mon livre et je suis très, très excitée. Ah, et oui, et je dis cache comme un arbre sans gigante, perché in verità io mi chiamo Monica Bellucci, a tetta giganta, donna giganta. Perché siamo arrivati? Basta. Vedi, quando parliamo di cose eccitanti c'è subito lei, la nostra Monica, la nostra Beluscia, con cui le sue reggisene dedichiamo questa canzone. Da la va la va. Finito, no? La petite morte. È morto.